Dee Blythe prese in mano la situazione come aveva già fatto altre volte e si fece avanti con un sorriso amichevole. Credo di sapere chi siete voi, disse. Abitate alla canonica, vero? Fece annuì il volto punteggiato di fossette. Abbiamo sentito il profumo delle vostre trote e volevamo sapere cosa fosse. Beh, allora sedetevi e aiutateci a mangiarle, disse Dee. Ma magari non ne avete abbastanza, disse Jerry lanciando un'occhiata affamata al vassoio di latta. Ne abbiamo tre a testa, disse Jem, sedetevi. Non vi furono altri complimenti e i ragazzi si sedettero sulle pietre coperte di muschio. Il banchetto fu lungo e allegro. Nan e Dee sarebbero probabilmente morte di paura se avessero scoperto quel che Faith e Una sapevano benissimo, ovvero che Carla aveva due topolini nella tasca della giacca, ma non lo vennero mai a sapere e non ne soffrirono. E quale occasione migliore di una tavolata per conoscersi meglio. Quando l'ultima trota sparì, i bambini della canonica e quelli di Ingleside erano diventati alleati e amici per la pelle. Si conoscevano da sempre e non si sarebbero più separati. Quelli che hanno conosciuto Giuseppe sanno riconoscere gli altri membri della propria stirpe. Si raccontarono reciprocamente la storia delle loro brevi vite. I bambini della canonica seppero tutto di Avonlea, di Green Gables, di tutte le tradizioni della Valle dell'Arcobaleno e della casetta vicino alla costa dove era nato Jem. I bambini di Ingleside udirono il racconto di Maywater, dove i Meredith avevano vissuto prima di trasferirsi a Glen, della bambola con un occhio solo di Una e del galletto domestico di Faith. Di solito lei si offendeva molto quando la gente la prendeva in giro perché aveva deciso di avere un galletto come animale domestico. Ma i Blythe accettarono il fatto senza metterlo in discussione e le piacquero ancora di più per questo. Un galletto grazioso come Adam è tenero quanto un cane o un gatto, disse. Se fosse stato un canarino, nessuno avrebbe avuto da ridire. L'ho allevato io, da quando era un pulcino minuscolo. Me l'ha regalato la signora Johnson di Maywater. Dopo che una donnola aveva ucciso tutti i suoi fratellini e le sue sorelline, perciò l'ho chiamato con il nome di suo marito. Non mi sono mai piaciute le bambole, né i gatti. I gatti sono infidi e le bambole, beh, sono morte. Chi ci vive in quella casa laggiù? Chiese Jerry. Le signorine West, Rosemary e Ellen, rispose Nan. Io e Dee quest'estate andremo a lezione di musica dalla signorina Rosemary. Una guardò le fortunate gemelle con occhi colmi di desiderio, ma così gentili da non risultare invidiosi. Ah, se avesse potuto anche lei prendere lezioni di musica. Era uno dei sogni della sua piccola vita segreta e nessuno l'aveva mai capito. La signorina Rosemary è molto dolce ed è sempre vestita benissimo, disse Dee, e ha i capelli color caramello, aggiunse con una punta di tristezza, perché, come sua madre prima di lei, non si rassegnava all'idea di avere i capelli rossi. A me piace anche la signorina Ellen, disse Nan. Quando veniva in chiesa mi regalava sempre delle caramelle. A Dee invece fa paura. Ha le sopracciglia nerissime e il vocione, disse Dee. Kenneth Ford era terrorizzato da lei quando era piccolo. Mamma mi ha raccontato che la prima volta che la signora Ford l'ha portato in chiesa, la signorina Ellen era seduta proprio dietro di loro. E quando Kenneth se ne è accorto ha cominciato a gridare così forte che la signora Ford ha dovuto portarlo fuori. Chi è la signora Ford? Chiese una. Oh, i Ford non vivono qui, vengono solo d'estate. E proprio quest'estate non ci saranno. Vivono in quella casetta, lontano, lontano, sulla spiaggia, dove una volta vivevano papà e mamma. Oh, quanto vorrei farvi conoscere Persis Ford. Sembra un dipinto. Ho sentito la storia della signora Ford, disse Faith. Me l'ha raccontata Bertie Shakespeare Drew. È stata sposata per 14 anni con un tipo che era morto e che poi è risuscitato. È una stupidaggine, disse Nan. Non è andata così. Bertie Shakespeare non capisce mai niente. La storia vera la so io e te la racconterò, ma non adesso perché è troppo lunga e per noi è ora di andare. A mamma non piace che restiamo fuori così tanto nelle serate umide come questa. Che i bambini della canonica restassero fuori all'umido non importava a nessuno. Zia Marta era già a letto e il pastore era così immerso nelle sue riflessioni sull'immortalità dell'anima da dimenticare completamente la mortalità del corpo. I bambini, tuttavia, tornarono lo stesso a casa con in testa le immagini di future occasioni di divertimento. La valle dell'arcobaleno mi sembra ancora più bella del cimitero, disse una. E mi sono già affezionata ai Blythe. È così bello quando puoi affezionarti subito alle persone, perché di solito non capita. Domenica scorsa papà ha detto nel suo sermone che dovremmo amare tutti quanti. Ma come si fa? Come si fa ad amare la moglie di Alec Davis, per esempio? Oh, ma quello l'ha detto in chiesa, disse Faith disinvolta. Non è mica così sciocco da pensare che valga anche fuori. I bambini Blythe rientrarono a Ingleside, tutti tranne Jem, che si allontanò per pochi minuti in una spedizione solitaria nell'angolo più lontano della valle dell'arcobaleno. Era lì che crescevano i fiori di biancospino e Jem non dimenticava mai di portare un mazzolino a sua madre, finché ce n'erano. L'arrivo di Mary Vance. Questa è una di quelle giornate in cui senti che potrebbe accadere qualcosa di nuovo, disse Faith, ispirata dal fascino dell'aria cristallina e delle colline azzurre in lontananza. Strinse le braccia intorno al petto come per abbracciarsi e poi prese a danzare sopra la tomba del vecchio Ezekiah Pollock, suscitando l'orrore di due anziane signore che proprio in quel momento passavano di là con il loro calesse e la videro saltellare intorno alla lapide agitando in aria le mani. E quella, brontolò una delle due signore, sarebbe la figlia del nostro pastore. Oh, cosa ti aspetti dalla famiglia di un vedovo? Rispose l'altra, ed entrambe scossero la testa. Era sabato mattina e i Meredith erano usciti nel mondo ancora umido di rugiada, felici di quel giorno di libertà. Non avevano mai nulla da fare nei giorni di vacanza. Persino Dee e Nan Blythe avevano qualche faccenda da sbrigare a casa di sabato mattina. Le bambine della canonica invece erano libere di scorrazzare dall'alba rossastra al tramonto rugiadoso se lo volevano. Ed era proprio ciò che Faith voleva, mentre una provava un segreto senso di umiliazione perché loro non imparavano mai a fare nulla. Le altre ragazze della loro classe sapevano cucinare, cucire, lavorare a maglia, lei invece ignorava tutte quelle cose. A un certo punto Jerry propose di darsi all'esplorazione, perciò si avventurarono nel macchione di abeti dopo aver recuperato Carl, chino con le ginocchia nell'erba umida a osservare le sue amate formiche. Superato il macchione, sbucarono nel pascolo del signor Taylor, punteggiato dai fantasmi candidi dei denti di leone. In un angolino un po' in disparte c'era un vecchio fienile dove a volte il signor Taylor conservava l'eventuale raccolto in eccesso, ma che non veniva usato ad altro scopo. I bambini Meredith marciarono in quella direzione e gironzolarono al primo piano per diversi minuti. «Cos'è stato?» sussurrò tutta un tratto una. Si misero tutti in ascolto e udirono un fruscio al piano superiore del fienile, lieve ma distinto. Si guardarono tra di loro. «C'è qualcosa lassù!» sussurrò Faith. «Salgo a vedere cos'è!» disse Jerry risoluto. «No!» Non ci andare, lo pregò una afferrandolo per un braccio. Io ci vado. Allora veniamo tutti, disse Faith. E tutti e quattro salirono su per la scala traballante. Jerry e Faith con piglia audace, una pallida per la paura e Carla abbastanza distratto perché stava riflettendo sulla possibilità di trovare un pipistrello lassù. Moriva dalla voglia di vederne uno alla luce del sole. Arrivati in cima, scoprirono subito l'origine del fruscio. Ciò che videro li lasciò sconcertati per qualche istante. In un piccolo nido scavato nel fieno c'era una ragazzina che aveva tutta l'aria di essersi appena svegliata. Quando li vide si alzò in piedi un po' tremante e alla luce vivida del sole che penetrava dalle finestre coperte di ragnatele, i Meredith si resero conto che il suo viso sottile e abbronzato era in realtà molto pallido. Aveva i capelli biondi, legati in due trecce lunghe e spesse, e degli stranissimi occhi. Sono bianchi, pensarono i bambini della canonica, che li guardavano con aria metà sprezzante, metà patetica. Erano di un azzurro così chiaro che sembravano davvero bianchi, specialmente a fronte della sottilissima linea scura che circondava le iridi. La ragazzina era a piedi scalzi e senza cappello, e indossava un vecchio abito scolorito e stracciato che le andava troppo corto e stretto. Per quanto riguardava l'età, era difficile indovinarla dal suo visetto avvizzito, ma a giudicare dall'altezza doveva essere intorno ai 12 anni. «E chi sei?» chiese Jerry. Lei si guardò intorno come per cercare una via di fuga, poi Poi fu scossa da un lieve tremito di disperazione. Mi chiamo Mary Vance, rispose. E da dove vieni? Insiste Jerry. Invece di rispondere, Mary tornò a sedersi, o forse ricadde all'indietro sul fieno e si mise a piangere. Faith si lanciò all'istante verso di lei e le cinse con un braccio le spalle sussultanti. Smettila di darle fastidio, disse a Jerry. Poi abbracciò stretta la trovatella. Non piangere, tesoro. Dici cosa succede. Siamo tuoi amici. Ho tanta, tanta fame, si lamentò Mary. Non metto niente nello stomaco da giovedì. Solo l'acqua del ruscello là fuori. I bambini della canonica si guardarono l'un l'altro inorriditi. Faith balzò in piedi. Vieni con noi a casa. Ti daremo subito qualcosa da mangiare. Mary si ritrasse. Oh, ma non posso. Cosa diranno vostra mamma e vostro papà? Mi rispediranno a casa. Beh, la mamma non ce l'abbiamo e a papà non darà fastidio. E nemmeno a zia Marta. Vieni, ti dico, disse Faith battendo il piede impaziente. Quella strana ragazza voleva proprio morire di fame a pochi metri da casa loro. A quel punto Mary si arrese. Era così debole che quasi non ce la faceva a scendere la scala, ma in qualche modo riuscì ad arrivare giù e ad attraversare i campi fino alla cucina della canonica. Zia Marta stava preparando il pasto del sabato e non badò a lei. Faith e una corsero nella dispensa e la saccheggiarono di tutto ciò che conteneva di commestibile, ovvero il solito pane, burro, latte e una torta dall'aspetto bizzarro. Mary Vance si lanciò sul cibo con voracità e senza sollevare critiche sotto gli occhi dei bambini della canonica radunati intorno a lei. Jerry notò che aveva una bellissima bocca e dei denti bianchissimi, ancora più belli. Faith si accorse con un certo orrore che Mary non aveva altro addosso se non quell'abitino stracciato e scolorito. Una provava profonda compassione per lei e Carl la osservava con divertito stupore. Tutti la fissavano curiosi. Adesso vieni con noi al cimitero e raccontaci di te, disse Faith, quando l'appetito di Mary cominciò a placarsi. La ragazzina non si fece più pregare. Il cibo le aveva restituito la sua naturale vivacità e le aveva sciolto la lingua. Però voi non direte niente a vostro padre, né a nessun altro, vero? Chiese dopo essersi sistemata sulla tomba del signor Pollock, a mo' di trono. Di fronte a lei erano allineati i bambini della canonica. Nell'aria si respirava eccitazione, mistero e avventura. Era davvero successo qualcosa di nuovo? No, a nessuno. Croce sul cuore? Croce sul cuore. Beh, sono scappata di casa. Abitavo dalla signora Wiley, dall'altro lato della baia. La conoscete? No. Oh, meglio così. È una donna terribile. Santo cielo, quanto la odio. Mi faceva lavorare come una schiava e non mi dava neanche abbastanza da mangiare. E mi picchiava quasi tutti i giorni. Guardate qui. Mary si tirò su le maniche lacere per mostrare braccia e mani esili, scorticate fin quasi alla carne viva e coperte di lividi. I bambini della canonica rabbrividirono. Faith si fece rossa per l'indignazione e gli occhi blu di una si riempirono di lacrime. Mercoledì sera mi ha picchiata con un bastone, disse Mary in tono noncurante, perché la mucca aveva rovesciato il bidone del latte con un calcio. Ma come potevo sapere che quella maledetta vecchia mucca stava per scalciare? Il pubblico di Mary fu scosso da un brivido piuttosto sgradevole. Nessuno di loro si sarebbe mai azzardato a usare delle parole del genere, ma c'era qualcosa di affascinante nel sentirle usare da qualcun altro e da una ragazza per di più. Quella Mary Vance era senz'altro una creatura interessante. Ma ci credo che sei scappata, disse Faith. Oh, non sono scappata perché mi ha picchiata. Quello era normale, ci ero abituata, accidenti. No. Era da una settimana che pensavo di andarmene, perché ho scoperto che la signora Wiley ha intenzione di affittare la fattoria e trasferirsi a Lowbridge e mi avrebbe lasciata da una sua cugina che abita sulla via per Charlottetown. Questo non potrei sopportarlo. Quella lì è ancora peggio della signora Wiley. L'estate scorsa lei mi ci ha lasciata per un mese e davvero avrei preferito vivere a casa del diavolo. Ancora un brivido. Una però aveva uno sguardo dubbioso. E quindi ho deciso di scappare. Avevo 70 centesimi da parte, me li aveva dati la moglie di John Crawford per per averle piantato le patate questa primavera. La signora Wiley non lo sapeva. L'ho fatto quando lei era in visita da sua cugina. Ho pensato di venire qui a Glen e comprare un biglietto per Charlottetown per trovarmi un lavoro lì. Sono una che si dà da fare, sapete? Non sono mica una pigrona. E quindi giovedì sono uscita di casa prima che la signora Wiley si svegliasse e ho camminato per 10 chilometri fino a Glen. Ma quando sono arrivata alla stazione mi sono accorta di aver perso i soldi. Non so dove e non so come, ma sta di fatto che non c'erano più. Non sapevo proprio cosa fare. Se fossi tornata dalla signora Wiley mi avrebbe tolta la pelle di botte, perciò sono andata a nascondermi in quel vecchio fienile. E adesso che farai? Chiese Jerry. Non lo so. Immagino che dovrò tornare e affrontare il mio destino. Adesso che ho riempito lo stomaco, credo di potercela fare. Ma negli occhi di Mary si intravedeva la paura dietro la spavalderia. Una saltellò da una pietra all'altra e andò ad abbracciarla. Non te ne andare, resta con noi. Oh, la signora Wiley verrà a cercarmi, disse Mary. Probabilmente è già sulle mie tracce. Potrei restare qui finché non mi trova, se a voi non dispiace. Sono stata una maledetta idiota a pensare di potermela svignare. Lei sarebbe capace di inseguirmi anche sottoterra. Ma ero così disperata. La voce di Mary si fece tremante, ma lei si vergognava di mostrarsi debole. Mi hanno trattata come un cane negli ultimi 4 anni, spiegò con aria di sfida. Sei stata 4 anni dalla signora Wiley? Sì, è venuta a prendermi all'orfanotrofio di Hopetown quando ne avevo 8. È lo stesso posto da cui viene anche la signora Blythe, esclamò Faith. Ci sono stata per 2 anni. Mi ci hanno portata che ne avevo 6. Mamma si è impiccata e papà si è tagliato la gola. Oh, santo cielo! E perché? Chiese Jerry. Boh, bevevano, si limitò a dire Mary. E non hai parenti? Neanche uno, maledizione, almeno che io sappia. Una volta però evidentemente ne avevo, perché a quanto pare mi hanno dato il nome di tutti quanti. Sono Mary, Martha, Lucille, Moore, Ball, Vance. Che ve ne pare? Mio nonno era un uomo ricco, scommetto che era più ricco del vostro. Ma papà si è bevuto tutto quanto e mamma gli ha dato una mano. Anche loro mi picchiavano. Accidenti, sono così abituata a farmi picchiare che quasi mi piace. Mary fece un cenno sprezzante con il capo. Intuiva che i bambini della canonica la compativano per i segni che aveva sul corpo, ma non voleva la loro compassione. Voleva semmai essere invidiata, perciò si guardò intorno con aria allegra. I suoi bizzarri occhi, non più offuscati dalla fame, brillavano ora. Avrebbe fatto vedere a quei ragazzini che tipo era davvero. Oh, mi sono anche ammalata un sacco di volte, disse orgogliosa. Tanti bambini non sarebbero sopravvissuti a quel che ho dovuto passare io. Ho avuto la scarlattina e il morbillo e l'erisipela, gli orecchioni, la pertosse e anche la polmonite. E hai mai avuto una malattia mortale? Chiese una. Non lo so, rispose Mary dubbiosa. Certo che no, sbuffò Jerry. Se hai una malattia mortale, muori. Beh, io non sono mai morta, disse Mary. Però una volta ci sono andata vicina. Pensavano tutti che lo fossi e stavano per portarmi via. Poi però mi sono svegliata. E com'è essere quasi morti? Chiese Jerry curioso. Oh, non te ne accorgi. Ho saputo solo diversi giorni dopo che era successo. È stato quando ho avuto la polmonite. La signora Wiley non aveva voluto chiamare il dottore, disse che non aveva intenzione di spendere tutti quei soldi per una serva di casa. Mi ha curato la vecchia zia Christine McAllister con degli unguenti. È stata lei a riportarmi indietro. A volte però penso che sarebbe stato meglio morire del tutto e farla finita così. Ma oh, se sei sicuro di finire in paradiso, immagino che sia vero, disse Faith, un po' dubbiosa. Beh, dove altro potresti andare? Chiese Mary perplessa. All'inferno, no? Disse una abbassando la voce, abbracciando stretta Mary come per mitigare l'orrore di quell'idea. L'inferno? E che posto è? Beh, è dove vive il diavolo, disse Jerry. Ne avrai sentito parlare, l'hai menzionato prima. Oh, sì, ma non avevo idea che vivesse davvero da qualche parte. Pensavo che se ne andasse in giro e basta. Il signor Wiley in effetti parlava spesso dell'inferno quando era vivo. Diceva sempre alla gente di andarci. Ho sempre pensato che fosse un posto da qualche parte nel New Brunswick, perché lui veniva da lì. Oh, l'inferno è un posto orribile, disse Faith con il gusto drammatico che soltanto parlare di cose terribili sa dare. La gente cattiva ci finisce dopo morta e brucia nel fuoco per l'eternità. E chi ve l'ha detto? Chiese Mary incredula. C'è scritto nella Bibbia, ma ce l'ha detto anche il signor Isaac Cruthers alla scuola domenicale di Maywater. Era un anziano della parrocchia e sapeva tutto quel che c'è da sapere in proposito. Ma non ti preoccupare, se sei buona andrai in paradiso. E se invece sei cattiva, beh, penso che preferiresti in ogni caso l'inferno. No, io no, disse Mary con decisione. Non vorrei mai bruciare per l'eternità, per quanto sia stata cattiva. So bene cosa significa. Una volta ho toccato per sbaglio un attizzatoio rovente e cosa bisogna fare per essere buoni? Devi andare in chiesa e alla scuola domenicale, leggere la Bibbia, dire le preghiere la sera e fare offerte per i missionari, disse una. Sono un sacco di cose, commentò Mary. C'è altro? Devi andare a chiedere a Dio di perdonarti per i peccati che hai commesso. Ma io non ne ho commesso nessuno, disse Mary. E comunque, e che cosa sono i peccati? Oh, Mary, certo che li hai commessi, lo fanno tutti. Non hai mai detto una bugia? Certo, un sacco, rispose lei. E quello è un peccato terribile, disse solennemente Yuna. E quindi mi stai dicendo che mi manderanno all'inferno perché ogni tanto ho detto una bugia? Chiese Mary. Ma perché? Non ho potuto evitarlo. La signora Wiley mi avrebbe rotto tutte le ossa se non le avessi detto una bugia certe volte. Le bugie mi hanno salvata da un sacco di legnate, credetemi. Una sospirò. Quella faccenda era troppo difficile da risolvere. Il solo pensiero di essere picchiata crudelmente la faceva rabbrividire. Perciò probabilmente anche lei avrebbe mentito. Strinse la mano callosa di Mary. Hai altri vestiti oltre a questo? Chiese Faith, la cui natura gioiosa evitava di indugiare troppo a lungo su argomenti così penosi. Me lo sono messo proprio perché ormai era da buttare, esclamò Mary, arrossendo. Tutti i miei vestiti me li ha comprati la signora Wiley e io non volevo avere alcun debito con lei. E poi sono una persona onesta. Visto che avevo deciso di scappare, non volevo portarmi via nulla che appartenesse a lei e che potesse avere qualche valore. Ma quando sarò grande avrò un abito di satin azzurro. Comunque, anche i vostri vestiti non sono poi così eleganti. Pensavo che i figli di un pastore fossero sempre vestiti per bene. Era chiaro che Mary avesse un bel caratterino e che fosse piuttosto suscettibile su alcuni argomenti, ma aveva anche uno strano fascino selvaggio che catturò tutti quanti. Quel pomeriggio i Meredith la portarono nella valle dell'arcobaleno e la presentarono agli altri come un'amica che vive dall'altro lato della baia ed è venuta a trovarci. I Blythe l'accettarono senza fare domande, anche perché il suo aspetto era decisamente più rispettabile adesso. Dopo il pranzo, che la zia Marta aveva trascorso a borbottare tra sé e sé mentre il signor Meredith ripassava il suo sermone domenicale in uno stato di semi-incoscienza, Faith aveva convinto Mary a indossare uno dei suoi abiti insieme ad altri indumenti. Con i capelli pettinati, Mary aveva un'aria più che passabile e fu una gradita compagna di giochi, anche perché ne conosceva tanti, nuovi ed eccitanti, e aveva una parlantina vivace. Alcune delle sue espressioni in effetti suscitarono qualche sguardo perplesso da parte di Dee e Nan. Non erano sicure di cosa ne avrebbe pensato la loro mamma, ma sapevano perfettamente cosa avrebbe detto Susan. Alla fin fine, però, Mary era pur sempre un ospite della canonica, perciò doveva essere una ragazza a posto. Giunta la sera, si pose il problema di dove far dormire Mary. Non possiamo metterla nella stanza degli ospiti, disse Faith a una con aria perplessa. Guardate che non ho i pidocchi, disse Mary in tono offeso. Oh, non intendevo questo, spiegò Faith. È che la stanza degli ospiti è conciata malissimo. I topi hanno rosicchiato un buco gigante nel materasso e ci hanno fatto il nido dentro. Ce ne siamo accorti solo la settimana scorsa, quando zia Marta ci ha messo a dormire il reverendo Fisher di Charlottetown. Lui se n'è accorto subito e papà ha dovuto cedergli il suo letto e ha dormito nello studio. Zia Marta non ha ancora avuto tempo di sistemare la stanza, perciò ha detto che per il momento non ci deve dormire nessuno, picchiando Pidocchio o non pidocchi? La nostra stanza è piccolissima e anche i nostri letti non c'è spazio per dormire con noi. Ah, beh, posso sempre tornare al fienile se mi prestate una coperta, ragionò Mary. Ieri notte ho avuto freddo, ma ho dormito in letti peggiori. Oh no, non è necessario, disse una. Ho pensato a un piano, Faith. Hai presente quel cavalletto che sta in soffitta? Quello con sopra quel vecchio materasso che ci ha lasciato il pastore precedente? Possiamo prendere le lenzuola della stanza degli ospiti e fare un letto per Mary lassù. Non ti dispiacerà dormire in soffitta, vero Mary? È proprio sopra camera nostra. Oh, qualsiasi posto va bene. Accidenti, non ho mai avuto un posto decente per dormire in vita mia. A casa della signora Wiley dormivo sul soppalco della cucina. Dal tetto colava acqua d'estate e neve d'inverno e il mio letto era un pagliericcio buttato per terra. Non sono certo schizzinosa su dove dormo. La mansarda della canonica era una stanza oblunga e in penombra dal soffitto basso, con una piccola mansarda separata. Lì fu preparato il letto per Mary, con le lenzuola cucite a mano e la coperta ricamata che Cecilia Meredith aveva orgogliosamente approntato per la sua camera degli ospiti e che per il momento erano sopravvissuti ai discutibili lavaggi della zia Marta. Una volta scambiata la buonanotte, sulla canonica calò il silenzio. Una stava quasi per addormentarsi quando un suono sopra di lei la fece balzare di scatto a sedere. «Senti, Faith!» Mary sta piangendo, bisbigliò. Faith non rispose, si era già addormentata. Una allora scese dal letto e in camicia da notte percorse il corridoio e salì le scale della soffitta. Lo scricchiolio delle assi annunciò in anticipo il suo arrivo, perciò quando entrò nella mansarda trovò silenzio assoluto e una sagoma immobile sotto le lenzuola. Mary, bisbigliò una. Nessuna risposta. Una si avvicinò al letto e tirò la coperta. Mary, lo so che stai piangendo, ti ho sentita. Ti senti sola? Mary si fece finalmente vedere, ma non disse nulla. Fammi mettere vicino a te, ho freddo, disse una tremando nell'aria gelida, perché la finestra della soffitta era aperta e lasciava entrare la brezza che giungeva dalla costa a nord. Mary si spostò e una si rannicchiò accanto a lei. Non devi sentirti sola. Forse non avremmo dovuto farti dormire qui già dalla prima notte. Non mi sento sola, singhiozzò Mary. E allora perché piangi? Oh, è che mi sono venute in mente delle cose mentre ero quassù. Ho pensato che forse dovrò tornare dalla signora Wiley e che mi picchierà per essere scappata e che andrò all'inferno perché ho detto delle bugie e mi sono preoccupata un sacco. Oh, Mary, disse la povera una imbarazzata. Non credo che Dio ti manderà all'inferno per aver detto qualche bugia, visto che non sapevi di fare del male. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. È troppo buono e gentile. Certo, adesso che lo sai, non devi dirle più. Ma cosa ne sarà di me se non posso più dirle? Disse Mary con un singhiozzo. Tu non capisci, non sai niente. Hai una casa e un padre che ti vuole bene, anche se sembra sempre che sia un po' da qualche altra parte, ma almeno non vi picchia. E avete abbastanza da mangiare, anche se quella vostra vecchia zia non sa davvero niente di cucina. Oggi è il primo giorno della mia vita in cui ricordo di aver mangiato abbastanza. E mi hanno sempre picchiata per tutta la vita, tranne nei 2 anni che ho passato all'orfanotrofio. Lì non mi picchiavano. Anche se la direttrice era un tipo piuttosto irascibile, sembrava sempre sul punto di staccarmi il naso a morsi. La signora Wiley, però, mi terrorizza per davvero. Non posso farci niente e ho tanta paura di dover ritornare da lei. Forse non dovrai farlo. Magari riusciremo a trovare una soluzione. Chiediamo insieme a Dio di aiutarti a non ritornare dalla signora Wiley. Tu le dici le preghiere, vero Mary? Sì. Prima di andare a dormire recito sempre una vecchia preghiera in rima, disse Mary in tono noncurante, ma non ho mai pensato di chiedere qualcosa in particolare. Nessuno a questo mondo si è mai preoccupato di me, perciò non mi è mai venuto in mente che potesse farlo Dio, figurarsi. Forse si prenderà il disturbo per te, visto che sei figlia di un pastore. Si prenderà tutto il disturbo del mondo per te, Mary, ne sono sicura, disse una. Non importa di chi sei figlia. Chiediglielo e lo farò anch'io. Va bene, cedette Mary. Se anche non funziona, di certo non farà male. Ma se conoscessi la signora Wiley come la conosco io, non saresti così sicura che Dio voglia mettersi contro di lei. In ogni caso, basta piangere. La vista da qui è molto meglio di ieri, in quel vecchio fienile pieno di gatti. Guarda, si vede il faro di Four Winds. Non è carino? Questa è l'unica finestra da cui si vede, disse una. Mi piace un sacco guardarlo. Davvero, anche a me. Dal soppalco della signora Wiley lo vedevo ed era il mio unico conforto. Quando ero tutta addolorante lo guardavo e mi dimenticavo di dove mi faceva male. Pensavo alle navi che salpavano e se ne andavano lontano e desideravo essere a bordo per lasciarmi tutto quanto alle spalle. D'inverno, quando era spento, mi sentivo davvero sola. Senti una, ma perché siete così gentili con me se non mi conoscete neanche? Perché è giusto così. Nella Bibbia c'è scritto che bisogna essere gentili con tutti. Ah sì? Mi sa che un sacco di gente non ci ha fatto caso. Non ricordo di nessuno che sia mai stato gentile con me. Davvero. Senti una, quelle ombre sulla parete non sono carinissime. Sembrano uno stormo di uccelli ballerini. E senti un po' una, voi mi piacete. E anche i ragazzini Blythe e Dee. Ma quella Nan non mi piace tanto, mi sembra un tipo un po' orgoglioso. Oh no, Mary, non lo è per niente, disse subito una. Proprio no. Non ci credo. Tutti quelli che tirano su la testa in quel modo lo sono. Non mi piace. Beh, a noi piace molto. Immagino che vi piaccia più di me, disse Mary gelosa. È così? Beh, Mary, lei la conosciamo da settimane, te soltanto da poche ore, balbettò una. Quindi vi piace più di me, disse Mary furiosa. E va bene, fatevela piacere quanto volete, non mi importa, posso cavarmela senza di voi. Detto questo, si voltò di scatto verso la parete. Oh, Mary, disse una, accarezzandole teneramente la schiena, non dire così. Tu mi piaci sempre di più, e se fai così, mi fai stare male. Nessuna risposta. Una singhiozzò. E in quell'istante Mary si voltò e l'abbracciò stretta. Shh, le disse, non piangere per quello che ho detto. Sono stata perfida come il diavolo a parlare così. Dovrei essere spellata viva. Voi siete stati così buoni con me. Tutti dovrebbero piacervi più di me. Mi merito tutte le legnate che ho ricevuto. Shh, shh, shh, shh. Se continui a piangere, scendo giù al porto in camicia da notte e vado ad annegarmi. Quella terribile minaccia indusse una a ricacciare indietro i singhiozzi. Mary le asciugò le lacrime con il pizzo del cuscino, dopodiché, perdonante e perdonata, si rannicchiarono insieme di nuovo in armonia e guardarono le ombre dei rampicanti proiettate sulla parete dalla luce della luna finché non si addormentarono. Nello studio, al piano di sotto, il reverendo John Meredith percorse il corridoio con il volto rapito e gli occhi illuminati, pensando a ciò che doveva dire il giorno seguente e ignaro del fatto che sotto il suo tetto dormiva una piccola anima disperata che vagava nell'oscurità e nell'ignoranza, circondata dal terrore e alle prese con difficoltà troppo grandi per lei, intenta in una lotta impari contro l'indifferenza di questo vasto mondo.